a volte strane storie riempiono i pensieri, ci sbatte la memoria e sembrare quasi ieri, capire com'è stato e lei cosa ha cercato in me. Angelo non ero, lei diceva sì. Scoprire nei suoi occhi la noia per la vita, dell'anima lo specchio per capire che è finita, servirsi di un momento e poi trovarsi un alibi per noi, cercare forse un'altra storia, chi lo sa. Miracolo d'amore, quello vero per la vita, cresce sempre nel calore di qualcosa che è sentita, una pena ancora si troverà più sola, e la pianta dell'amore non può crescere con lei. Finisce poi l'estate con il sole sulla pelle, lontane quelle immagini nel chiarore delle stelle, nel respirare a fondo e poi capire com'è stato e lei, quale storia immaginata insieme a me. Meglio star da soli che un angelo vicino, succede che si voli come quando bevi il vino, ricordi del suo viso e poi il falso nei racconti suoi, forse aveva un'altra storia, chi lo sa. Storie senza amore, quello vero è per la vita, portano nel cuore un qualcosa mai capita, puoi sognare ancora nel restare soli, ma la pianta dell'amore può crescere con noi.